Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. È venerdì, caro Oscar. Venerdì 17. Venerdì 17, sì, sì, sì. È venerdì 17. Che non è venerdì 13, però. No, vabbè, però anche il 17, insomma, perché, per così dire. Allora, devi sapere che oggi i santi ci sono. È una storia bellissima quella dei santi di oggi, perché a parte alcuni di nome un po' particolari, tipo Lupiano, Silvino, finta anche un nome celtico, Evermodo e Bonoso, però sono, è la storia di sette santi fondatori di un ordine, quello dei Servi di Maria, i cosiddetti Serviti, quelli di padre Davide Maria Turoldo, che è una storia bellissima, perché erano i sette appartenenti le sette praticamente famiglie di mercanti più affermate nella Firenze del 200, che di fronte al fatto, tra epidemie da una parte che avvenivano, la gente diceva perché siete troppo ricchi, fate una vita dissoluta, eccetera, eccetera, insomma, iniziano a frequentarsi tra loro, a diventare sempre più pigri, si ritirano in un oratorio, in un eremo, e alla fine, dopo anni in cui maturano insieme a questa scelta, si ritirano sul Monte Senario, che sta qualche chilometro sopra da Firenze, tanto da fondare un ordine. Tant'è che se vediamo i nomi, sono proprio i nomi Buonaggiunta Manetti, Manetto dell'Antella, Amedeo degli Amidei e così via, sono proprio le grandi nobili. Famiglie. Esatto. E questo fatto, che è veramente storicamente attestato e così via, dimostra che, insomma, la fede a volte fa miracoli, anche laddove uno crede da fuori che no, dice, ma questi, figurati con lo stile di vita che hanno, no, oggi andrebbero, che ne so, all'Isola dei Famosi, no, all'epoca questi fondano, è una grande storia vera. Allora, oggi nel 1600 Giordano Bruno veniva con un morso in bocca portato a Campo dei Fiori, come sapete, non a fare una visita turistica, ma a bruciacchiare per conto dell'Inquisizione. E nel 1992, per, pensa, una tangentina che oggi sarebbe una cosa ridicola, perché sarebbe oggi 3.400 euro, Mario Chiesa fu arrestato per concussione. No. Tutto nasce da quello che oggi sarebbe una tangentina al Pio Albergo Trivulzio per 3.400 euro. 7 milioni di lire. Cioè, oggi sarebbe una roba praticamente, ma all'epoca, ecco. Infatti oggi ne parleremo, è il 25ennale di Mani Pulite, qualcosa di questo successo. Stesso giorno, nel 2011, ci furono degli arresti perché allo stesso Pio Albergo Trivulzio sì, c'erano gli affitti, gli amici e prezzi stracciati. Come si vede, la storia dell'Italia è sempre una storia particolare. E oltre a fare gli auguri a Mario Calabresi, che compie oggi gli anni, a Luigi Abete, che aleggia sempre in queste stanze, e a Rosita Celentano, fammi dire che oggi è un giorno fondamentale, perché oggi devi sapere che in Italia, perché di nazione in nazione cambia il giorno, si festeggia il giorno del gatto. Il gatto in casa, e quindi effettivamente. Stanotte ho subito il dato, micio in casa. Ho subito festeggiato con i miei 5 micioni. Ah, già, sì, sì, sì. Lulu, Lolo, Ragù e Artù. Ecco. Si sa. Auguri anche alla mia amica Roberta, oggi compie gli anni, quindi insomma, quindi che dobbiamo fare? Ognuno ha gli auguri, io anch'io. Io ormai sono. Ma l'hai letta la grande intervista? L'intervista a Renzi? No, quella Tavecchio. Mai il Corriere, mai fregato. Quella Tavecchio. E alla fine l'intervista in cui si ricandida, risponde a muso duro al buon Tommasi, che dice: ma insomma, ma perché Olivieri deve schierare gli allenatori? Stiamo parlando di calcio. Ma perché c'è un'altra intervista fondamentale oggi sul Corriere? Ma non lo so, fondamentale. Fondamentale, magari non c'è nulla, però c'è un'intervista di due pagine a Matteo Renzi che chiede, invoca per favore: non fate la scissione. Vuole, dai, dopo sembra così che lo Sbertucci. No, Dice invita a non fare la cessione. È un po' l'appello disperato, no? Quello dell'ultimo disperato momento. Mai, disperato, direi lui. Senso, no, però credo che sia un appello di fronte a una cosa che, da come si legge sui giornali, è molto avanzata. Però. Viene data al 95%. Questo è il titolo di oggi, che non ho capito cosa voglia dire. Sì, la scissione è al 95%. Manca un 5. I cronisti che seguono, sì, no, le leadership intorno al segretario dei partiti scrivono quello che sentono. Sì. Quindi il problema è, se ti chiedi ma che logica può avere, dici vabbè, lo dicono loro. Che non lo so, nessuno. 95%. Però insomma, che cosa vi aspettate da questo weekend politico? Potete anche dircelo, perché domenica c'è questa direzione dell'Assemblea del Partito Democratico. L'Assembleona, sono in mille. L'Assemblea in cui va anche la mitica Milena Mastromarino, Malena, che è intervistato per La Verità, dice, vado, pornostar e nonché delegata del PD in Puglia. Non lo so se va. Non lo so. Temo che ci siano aspetti un po' più importanti. Bisognerà chiederglielo. Va bene, comunque il numero per intervenire 800 24 00 24. Ah, è all'Isola dei Famosi. Io mi sono perso dei pezzi. Ma qui siamo Lorenzo Nespoli invece è informatissimo. Guarda che all'Isola dei Famosi, nota, io come sono molto bene informato. No, ma lui l'ha fatto solo per tenere meglio la lista dei componenti dell'Assemblea del PD. Vai a pensare? Ecco, va bene. Allora, parleremo anche di questo, parleremo di Mani Pulite, però caro Oscar, noi torniamo ogni tanto a richiamare un ospite che è il presidente di Riscossione Sicilia, cioè l'Equitalia siciliana, Antonio Fiume Freddo, che è qui con noi. Buongiorno Fiume Freddo. Buongiorno. E grazie. È andato da Rosi Bindi, Commissione Antimafia, a snocciolare delle cifre che hanno preso le prime pagine dei giornali e che hanno un po' inquietato tutti. Tipo una, si riscuote solo l'8% dell'evaso, questo ho letto. Cioè, quanti soldi Riscossione Sicilia non prende, non riesce a riscuotere? Dovremmo riscuotere circa 5 miliardi e 700 milioni di euro l'anno, e si riscuotevano appena 480 milioni, adesso abbiamo migliorato la performance, ma siamo lontanissimi da dati accettabili, no? Siamo comunque fermi sotto il miliardo, quindi ogni anno restano fuori dai 4 miliardi e mezzo ai 5 miliardi non riscossi. Il motivo per cui non si riesce a riscuoterlo? Il motivo è che ci sono alcune, ovviamente la povera gente paga per lo più, poi ci sono alcune sacche di potere, alcune imprese, soprattutto alcune tipologie di imprese, ortofrutta, carni, pesce, movimento terra, appalti pubblici, che rappresentano quel grumo, insomma, di contatto con una certa politica, e lì è più complicato arrivare. Poi ci sono intere aree della Sicilia, Barcellona, Pozzo di Gotto, Gela, dove i nostri ufficiali sartoriali hanno difficoltà ad entrare. Ci sono aree come il Trapanese, dove al nostro direttore di concessione hanno puntato la pistola alle tempie. Quindi è bene che si sappia che cosa succede in questo paese. Insomma, sì. La Sicilia è un'isola, lei pensi, e pare non avere navigli, perché oramai quasi tutto il naviglio dell'isola è intestato a tunisini. La provincia di Trapani ha un numero di partite IVA tunisine che non ha forse neppure la Tunisia più. Cioè siamo veramente... Beh, bella questa cosa, cioè partite IVA tunisine, cioè bella nel senso, si fa per ironizzare, sì, ovviamente. Assolutamente. Lì si è realizzata un'integrazione. Peccato che è un'integrazione dell'illecito, no? Dell'evasione. Sì. Ma cosa vuol dire ci sono zone in cui non si riesce a entrare? Gela, poi c'è detto... Vabbè, la pistola alla tempia la capiamo tutti, insomma, vuol dire il clima terribile. Che ma vuol dire ci sono zone in cui... Non è una suggestione, cioè è accaduto veramente. Questo è il problema. Cioè, è accaduto che si sia puntata la pistola al nostro direttore e nessuno più vuole andare a Trapani. Adesso ho trovato un nostro coraggioso, l'ho mandato lì e speriamo che vada bene. Per il resto ci sono aree dove è difficile entrare, cioè nel senso che gli ufficiali sartoriali vanno, ma nessuno apre la porta, non riescono a notificare, e questo avviene soprattutto in alcune aree del Messinese e del Misseno, quindi aree in cui lo Stato ha abbandonato. Quindi quando va a riscossione, che rappresenta lo Stato trova chi controlla il territorio, sì, che non è lo Stato. Anche perché se uno non riesce a fare una notifica non può, è il primo passo per chiedere poi le tasse. Ma guardi, noi il 95% del nostro contenzioso è sulle notifiche, no? Segnato questo in commissione antimafia. Anche lì c'è da verificare chi fa queste notifiche, con chi le fa. Perché noi abbiamo per lo più contenzioso sulla notifica, ma è chiaro che se non riusciamo a notificare una cartella non si avvia la procedura e tutto va poi in prescrizione, no? È chiaro. Così. Oscar, sono delle belle cifre. Sono belle cifre. Posso dire una cosa? Cosa che preoccupa persino meno. Dell'entità della riscossione, che ovviamente, ma l'entità della riscossione che non avviene, cioè facciamo 10 anni, 40 miliardi persi, 52, pensa, sì. 50. E il punto è che questa è la conseguenza. È la conseguenza del fatto che facciamo tutti finta da decenni di non vedere che cosa è la Sicilia vera, esatto. Non c'entra con i siciliani. Il problema è se ci fai caso, Alessandro, infatti. Ma anche, io parlo anche dell'informazione. L'informazione usa il coraggioso nostro ospite, che non a caso invitiamo sistematicamente, ma lo usa, suo malgrado, perché lui lo fa seriamente. Ricordate, ascoltatori, quando documentammo che gli avevano tagliato la dotazione annuale di spesa, guarda caso, un caso, poi per caso gliel'hanno ridata in assemblea regionale, però insomma, perché aveva detto innanzitutto che erano i partiti, i politici, gli enti regionali che erano esclusi dalla riscossione in Sicilia, esatto. per decenni. Perché? Perché era una specie di riconoscimento di nobiltà del sangue che si faceva, no? Però detto questo, noi però, come vedi, il sistema dell'informazione utilizza le cose che dice Fiume Freddo ogni X mesi, un po' come se fosse, come devo dire, colore. Sì. No, colore come... oppure no, facciamo lo scandalo due giorni, ma facciamo due sì, titoli sui giornali. Ma in Sicilia non si pagano le tasse. Che ci vuoi fare? Cioè, non è che c'è davvero poi la reazione di un politico, un pezzo apicale dello Stato. Perché lei è andata in commissione antimafia. Ma non è che possiamo affidarci a dei coraggiosi eroi, qualcuno che torni ad andare nel posto dove gli puntano la pistola alla tempia. E invece no, io ho proprio l'impressione che sia così. Essendo andato in commissione antimafia. Bravo, cioè, Fiume Freddo. Cosa succede adesso, Fiume Freddo? No, perché, temo nulla, cioè 2 ore e un quarto di audizione, per carità, con grande attenzione, con molte domande, con grande serietà, ma dopodiché un silenzio assoluto, cioè nessuna reazione se non il dispetto, il fastidio, perché queste cose, seppur per 2 giorni, guadagnano guadagnano la tribuna, e questo dà fastidio perché disturba il manovratore. Alla prima occasione immagino me la faranno pagare di nuovo. Però il problema, cioè quello che cerco di dire appunto, è che è un problema italiano, cioè questa condizione della Sicilia a chi serve? Questa condizione, questo patto criminale per cui in Sicilia pagano soltanto i cittadini comuni, ed è diventato poi un paradiso fiscale, un inferno fiscale per quelli che pagano, no? A chi serve tutto questo? Serve ad alimentare alcuni gruppi di potere che poi in un qualche modo partecipano anche alle tessere nazionali, cioè al quadro nazionale. Quindi qui la verità è che noi stiamo lasciando una terra in mano a dei vecchietti disperati perché non possono lasciarla, i ragazzi vanno fuori, i nostri figli vanno fuori, e si è desertificata. Cioè, questo è quello che si è saputo fare alla Sicilia. Non c'è un politico, un'istituzione che alzi il dito per dire andiamo tutti insieme e ci rivediamo tra 6 mesi per vedere cosa abbiamo, per dimostrare cosa abbiamo fatto. Vediamo Fiume Freddo, perché c'è un ascoltatore che si chiama da Palermo, Giancarlo, che mi dicono credo essere anche abbastanza critico. Giancarlo, sentiamo dalla redazione. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io chiamo da Palermo, sono un commercialista. Volevo dire a Fiume Freddo che sì, quello che lui dice sarà anche vero, ma dovrebbe anche un po' cominciare a farla funzionare la riscossione Sicilia, perché quando si lavora la riscossione Sicilia è un carrozzone dove non si rispettano le norme del codice procedura civile sulle notifiche, dove si mandano cartelle vecchie di 30 anni, cioè comincio un attimino a metterlo un po' a posto, riscossione Sicilia. Sì, quindi e poi un carrozzone. Tutti questi bei discorsi. No, perché a pagina 3 oggi del giornale il titolo è ci sono 886 avvocati che lavorano per riscossione Sicilia. È un problema che lei Fiume Freddo ha affrontato, però vuole rispondere anche a Giancarlo, il commercialista. Sì, ha ragione il commercialista, ha perfettamente ragione. Naturalmente noi siamo la parte finale di una procedura, per cui se riceviamo una cartella iscritta a ruolo dobbiamo notificarla, anche perché altrimenti metteremmo un atto dell'ufficio e poi nasce. Ma anche dopo 30 anni arrivano queste cartelle? Arrivano, perché noi abbiamo l'obbligo di trasferire, così come il ruolo ci arriva, di trasferirlo al cittadino. È chiaro che questo è un gravissimo vulnus, perché il cittadino molte volte va a pagare anche ciò che è prescritto, no? Oppure forma un contenzioso. Ma non abbiamo la libertà di non avviare la procedura se l'ente impositore ci ha inviato la cartella, tanto per essere chiari. Per il resto abbiamo finalmente fatto un accesso diretto per i commercialisti, cioè non dovranno più venire allo sportello, ma tecnologicamente, come saprà Giancarlo, da una settimana si potranno collegare con la partita IVA dei propri clienti e fare quello che devono fare. E gli 886 avvocati? Li abbiamo cancellati tutti, e quello è stato un colpo mortale per il sistema, no? 887 avvocati che abbiamo revocato per intero. E questo infatti ricordo, lei ce lo raccontò. Ah, e perché scrivono ancora la Sicilia paga 886 legali a pagina 3 del giornale? Perché l'informazione non sempre è attenta. In commissione antimafia abbiamo fatto la storia degli sprechi e quindi abbiamo parlato anche di questi avvocati, no? E consulenti. Se per questo avevamo uno studio di consulenza che io ho trovato, al quale abbiamo dato 1 milione di euro l'anno per 10 anni, 10 milioni di euro, per dare dei pareri giuridici, una consulenza giuridica. Lei pensi che in un anno diedero 3 pareri, costati più di 300.000 euro? Ah, l'uno, però, no? 330.000 euro l'uno. Capito? Io faccio l'avvocato, non mi è mai capitato, magari. Un bel parere. Quanto ci vuole a fare un parere? 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni? Beh, se è molto complesso, sì. Ma insomma, mi pare molto ben pagato. Beh, 5 giorni, un parere 333.000 euro. Questa è la situazione Sicilia. Ecco. Adesso non è più così, però se si vuole fare il salto di qualità, e cioè aggredire i grandi patrimoni, aggredire chi fa veramente male alla Sicilia, al paese, bisogna che ci siano altri strumenti. C'è questa volontà politica di farlo? Io sono molto scettico. Ho detto molto chiaramente in commissione che se mi si daranno gli strumenti per agire e andare oltre, io lo farò volentieri, e altrimenti si scelgano un altro, cioè non è che io ho questa prescrizione sanitaria. Sì. No? Le hanno dato un trattamento sanitario obbligatorio, in realtà è una camicia di forza. Va bene, stiamo a vedere la prossima puntata. Ringraziamo Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia. Io ormai non riesco più. No, sono cifre che dovrebbero davvero farci impallidire. E soprattutto, ripeto, è lo Stato che è seduto per interessi politici e di bande, di interessi sulle sue stesse macerie, con questa faccia beffarda che riserva poi a chi dice o crede di voler davvero cambiare. Ecco, questo è proprio è il senso profondo. Per dirne uno, posso dirti, adesso sembra che non c'entri niente, ma invece c'entra. Dopo il faro dei media per 3 giorni a Bologna, com'è finita? Che forse tolgono i tornelli. No, li tolgono. Vediamo, martedì. Infatti il rettore di Bologna forse dovrebbe spiegarci hanno due vinto, cose. E infatti sta muto, perché il ministero ha detto no, accogliete questa cosa dei ragazzi sui tornelli, via i tornelli. E quindi levano i tornelli e la chiudono, la biblioteca, fino a nuovo ordine, perché è devastata. Ecco lo Stato italiano. Vediamo, se così succederà, ma come oggi racconta i giornali, ecco, dovrebbe lo Stato succedere. Italiano. Si piega, è incapace di affermare, ma non la logica della forza e della violenza, le forze dell'ordine contro gli studenti che protestano. No, la forza della la ragione. Logica, esatto, la logica, no, buon senso. I tornelli servono per impedire che diventi un succo, eccetera, eccetera. E invece no, c'è chi dimostra che basta esercitare violenza, minaccia, delinquenza e vince. Vediamo, questa è una storia che tra l'altro sarà scritta settimana prossima. Se il rettore di Bologna vorrà venire a spiegare agli ascoltatori e a tutti i cittadini di Bologna, eccetera, esattamente qual è la posizione, cosa succederà martedì, pare, dovrà fare una relazione al Senato accademico, quindi credo che fino a martedì ci venga a dire, visto che abbiamo avuto anche il sindaco. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi avremo Carlo Nordio, magistrato, anche se in pensione si rimane magistrati a vita. E parleremo dell'avviso di garanzia, no, l'inchiesta Consip Terzani, Tiziano Renzi. Certo che il reato, forse ci potrà spiegare cosa vuol dire il reato di traffico di influenza. Traffico di influenza. Scusa, come accia l'ho lanciato ogni volta. Traffico, non traffico, era quello, io credevo fosse quello là, non lo so. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino, attenti a noi due. Allora c'è Germano dalla provincia di Venezia che ci chiama, caro Oscar. Germano, buongiorno. Buongiorno, buon lavoro Giannino, buon lavoro Milan. Grazie. Niente, io devo constatare che questo paese nel suo insieme è un paese fallimentare. Abbiamo fallito. Eravamo uno dei paesi più grandi e più rispettati del mondo. Siamo un paese fatto così. No? Chi è più furbo vince sugli altri. Quindi io ritengo, è dura, è drammatica, ma quando qualcosa non funziona bisogna fare solo semplicemente reset, azzerare tutto. Ma cioè? E quindi anche le maniere forti. Secondo me ti metto un annetto l'esercito, devi riscrivere la Costituzione, cioè è impossibile, non sistemeremo mai nulla. Ma chi la riscrive? L'esercito? No, si riparà un'altra volta quello che è stato fatto nel 48, un'altra costituente, ma capite che abbiamo la politica, sono sempre gli stessi. Ho capito, però Germano, lei dice la politica sono quelli lì, e chi la fa la costituente? I politici nuovi? No, ho capito, ma non riusciremo ad andarne fuori, ma le cose semplici, parliamo solo di una piccola cosa, esempio, una regione quanti bacini di acquedotto ha? 50.000 CDA, fai un CDA solo e rimani e lascia l'operatività nel territorio. Si fa anche così, risparmio. Cosa serve? No, va bene. Comunque, accogliamo almeno Oscar, almeno nella prima parte, cioè il paese è malato, ecco, dice così Germano. Certo, la soluzione forse l'esercito, riscrivere tutto, una soluzione un po' così. Ma anche Germano, sono sicuro, non prende la lettera quello che dice. Certo. Dice semplicemente, però. Ci siamo abituati alla constatazione di un panorama di macerie pubbliche, è purtroppo, è vero. Io lo so che contrasta con l'ottimismo dello storytelling con cui Renzi credeva di cambiare l'Italia. C'è il piccolo particolare che anche lui ha toccato con mano, che con la narrazione non cambi le cose. Per cambiare le cose devi cambiare in concreto. Perché se usi più di 2 miliardi per i bonus e l'economia resta quella più lenta in Europa, tranne... nessuno, perché oramai quella greca tra un po' nel tempo tassi crescita superiore ai nostri, allora vuol dire che non è con la narrazione, con le cose concrete. Le cose concrete, ohimè, sono quelle di un paese fermo, bloccato, diviso nelle mani di interessi. Per esempio i tassisti, no? I tassisti, non sto parlando dei tassisti, del blocco dei tassisti dal mio punto di vista come conferma gli interessi che bloccano l'Italia, neanche per idea. I tassisti nel merito della loro protesta poi bloccano l'Italia, non sono d'accordo che si serva. Però io li capisco. Cosa fa la politica da anni di fronte al tema? Rinvia. Cosa facciamo di fronte all'offerta di trasporto con piattaforma digitale, che è diversa dalla domanda e dall'offerta quella dei tassisti, ma per regolamentarla bisogna prendere delle decisioni, no? La politica promette gli interventi e rinvia di anno in anno. E rinvia. Il mille proroghe, questa è la politica. No, quindi voglio dire, sì, tu dici la protesta, il bloccare l'Italia è sbagliato, però dall'altra parte... Però dall'altra parte gli avevano detto faremo delle cose, ogni anno. Quali io non sono d'accordo, perché era naturalmente sì, vincoleremo a vostro favore. Ma prima di quello, però la politica gliel'aveva detto per l'ennesima volta e gli ha fatto marameo nel giorno del gatto, per così dire, gli ha fatto miau. E allora, sai com'è? Allora i tassisti dicono, cari politici però, mica lo avevamo detto noi, la norma l'avevate scritta voi, negli incontri eravate voi a dircelo, eccetera, eccetera, e adesso... prorogate. Ecco sì. Cos'è l'Italia. Comunque, è l'Italia anche che oggi, proprio oggi, 17 febbraio, celebra, se volete, il 25ennale di quella prima storica mazzetta Mario Chiesa, i 7 milioni. 7 milioni a Mario Chiesa, direttore più Albergo Trivulzio. No, di lire, non 7 di euro. Di lire. Sì, no, certo. Quindi appunto, 3.500 euro. Consegnate all'imprenditore Luca Magni, e che era d'accordo con quello che sarebbe diventato poi il pool di Mani Pulite, con Antonio Di Pietro, eccetera, per farlo incastrare, proprio la mazzetta. Noi vogliamo parlare con Carlo Nordio, che è procuratore aggiunto di Venezia, da pochissimo in pensione. Da quando, dottor Nordio? Da 2 o 3 giorni è in pensione. Buongiorno. Sì, dal 6 febbraio. Dal 6 febbraio. Italia ha perso un grande magistrato e ha guadagnato, spero a tempo pieno, un grande scrittore di libri di cui io sono. Io mi auguro questo, dottor Nordio. Anche uno storico. Ringrazio molto. Dottor Nordio, tutti a chiedersi ovviamente che eredità c'è, di Amiani Pulite, si dice l'Italia. Ecco, Luca Magni, l'imprenditore, ha fatto ieri un'intervista dicendo è molto peggio di prima. Cioè, intanto lui è stato escluso da tutte le commesse pubbliche da quando ha denunciato. Ricordiamo Luca Magni il ruolo che ebbe all'epoca. Certo, quello che consegnò i 7 milioni di lire a Mario Chiesa. Nordio, davvero dobbiamo pensare che quell'accorato e disperato appello di Luca Magni, cioè a dire è peggio di prima, è vero? Io non so se sia peggio di prima, perché sono concetti sempre molto relativi. Forse 25 anni fa stavamo peggio di 25 anni prima, e così durante il fascismo stavamo ancora peggio. Mi limito a dire che non è cambiato nulla, o meglio, se è cambiato, è cambiato perché la corruzione si è articolata in modi più complessi, coinvolgendo non solo i partiti e i vertici dei partiti, ma anche la burocrazia, che è quella cinghia di trasmissione tra l'attività produttiva e la politica e l'alta politica, che 25 anni fa noi avevamo, anche per mancanza di tempo, trascurato. L'avevamo detto, però, io stesso l'avevo detto qui nel Veneto, quando ho inquisito tutte le massime cariche della regione e anche qualche ministro, che sì, erano i ministri o i grandi politici che prendevano le mazzette, ma gli appalti venivano conferiti dalla burocrazia, e che questa cinghia di trasmissione era uscita intatta da Mani Pulite e avrebbe continuato, se non fossero cambiate le cose, a produrre i danni che aveva prodotto prima. E oggi questo si è avverato, con l'aggravante che invece di coinvolgere solo i vertici dei partiti o i loro rappresentanti, i loro dirigenti, diciamo così, finanziari ed economici, si è propagata fino agli organi di controllo. Nel MOSE abbiamo arrestato generali della Guardia, un generale della Guardia di Finanza, un altro magistrato della Corte dei Conti, magistrato alle acque, insomma tutte persone che erano lì per controllare. Sì. Ecco, questo è l'aspetto forse più negativo. Poi in linea generale non saprei dire, non ho la bacchetta magica per dire se sia più corruzione adesso che allora. Senta, nel campo tra virgolette dei liberali, cioè il Foglio per esempio, da sempre, su tutta l'inizio, lo sviluppo e il bilancio finale a distanza di anni di Mani Pulite e del manipulitismo, inteso come mitologia dei protagonisti e ripresa del motivo azionista che l'Italia solo con un po' di manette può ritrovare uno spirito etico che non ha mai avuto nelle sue fibre, motivo ricorrente, no? Di chi dice che la storia italiana è minata dal fatto di avere un DNA anarco-individualista, illegalista. Ecco, allora oggi dice, titolo, le leggo il titolo per chiedere la sua opinione: la contabilità di Mani Pulite non dimostra la corruzione ma il fallimento della rivoluzione per via giudiziaria populista. Lei che dice? Io direi che la condivido, ma l'equivoco nasce dal fatto che qualcuno, anzi più di uno, compresi molti magistrati, avevano ritenuto 25 anni fa che appunto Mani Pulite potesse essere un'operazione salvifica che risolvesse o riducesse i problemi della corruzione. Era una pia illusione, era una fantasia, se così mi posso esprimere. Posso dire anche che io l'ho detto subito. Certo, la magistratura doveva intervenire e siamo intervenuti, io stesso sono intervenuto molto severamente perché la legge va applicata, i reati vanno perseguiti e i colpevoli vanno puniti, ma illudersi che attraverso l'attività repressiva la corruzione potesse essere ridotta o addirittura annullata era una colossale sciocchezza, bastava conoscere un po' di libri di storia per capire che dai tempi di Verre e di Lidia la corruzione c'era. Il grande errore, qui sono caduti tantissimi magistrati, insomma io ho una grande stima del mio collega Davigo, però inorridisco quando continua a dire che le pene devono essere esemplari, che le pene devono essere deterrenti. Le pene esagerate non hanno mai intimidito nessuno. È proprio dell'altro giorno uno studio che dice che addirittura nei paesi dove c'è la pena di morte i reati in un certo senso aumentano. Vabbè, ma questi sono un poco pregiudizi mitici che ognuno di noi ha. Mi limito a dire che io ho sempre sostenuto, e lo sostengo ancora, che il corrotto o il potenziale corrotto non va più che intimidito, che tanto non si intimidisce, va disarmato. Ma non interessa niente pigliare 100 corrotti e sbatterli in prigione quando 100 corruzioni sono già state fatte. A me interessa evitare che quelle persone abbiano gli strumenti che gli consentono di farsi corrompere. Questi strumenti sono le leggi. Lei stesso ne ha parlato tante volte, ne ho parlato anch'io. Penso che su questo siamo d'accordo. Sì. Più le leggi sono complicate, più sono numerose, più conferiscono al diretto interessato un potere che sconfina nell'arbitrio, è più facile che si faccia corrompere. Un'altra vulgata, insomma, di Mani Pulite quando si parla è allora si rubava per i partiti, così almeno dicevano molti degli arrestati, adesso si ruba più per interessi personali o per le cosiddette cricche. In realtà sempre l'imprenditore Luca Magni dice dicevano così, poi avevano tutte le ville nell'Oltrepò pavese, anche quelle che dicevano rubavo per restavano appiccicati un po' di soldini anche a loro. Quindi, sì, però consentitemi di dire anche questo io l'ho detto 25 anni fa, vedete, rubare per il partito in realtà è molto più grave in un'ottica di cittadino, di civis, è molto più grave che non rubare per farsi la vita. Esatto. Diciamo che in un'ottica moralista cattolica è l'opposto, perché lei prende i soldi, li dà a un ideale che è il partito e quindi tutto sommato ha una giustificazione. Ma come cittadino io trovo molto più grave che una persona rubi per un partito che poi non è il mio, perché mi offende due questo volte. È il motivo per cui per me i soldi e le dai, io mettiamo sono comunista, ma mettiamo tizio comunista prende i soldi il democristiano e finanzia il partito democristiano, è fregato due volte come contribuente e anche come comunista. Perché i suoi soldi dice, almeno li dia al mio partito. Questo è il motivo per cui, per esempio, se ci riflette Alessandro, la mitologia di cui l'informazione è stato un pezzo di costruzione, non sto parlando di Mani Pulite, sto parlando di personaggi come Primo Greganti, che è il simbolo esattamente di quello che adesso ha detto Nordio, no? Il fatto che lui è al di sopra, anzi lui è l'eroe. Perché l'ha fatto per la causa, perché ha coperto, non ha collaborato. Ancora oggi tutti vanno a intervistarlo dicendo: ma la famosa valigetta dei soldi che si è beccato il PC per Gardini e così via. E lui a quel punto, con fare ispirato, parla dei principi generali, delle cose. Però di questo noi siamo purtroppo gli artefici nell'informazione, Alessandro. Certo, siamo stati gli artefici. Dottor Nordio, intanto grazie. Entra in politica? No, perché qualcuno ce l'ha chiesto. No, ho sempre detto che un magistrato non deve fare politica. Anche ma lei è in pensione adesso. E con questo finisco, certo. Io sono in pensione e come ho detto prima, devo scrivere. Mi piace scrivere. Scrive bellissimo. Però, se mi permette di dire, anche questo mito della magistratura salvifica è stato alimentato dal fatto che molti di questi magistrati che hanno acquisito notorietà con queste operazioni poi sono entrati in politica e questo non andava bene. Va bene, insomma, Nordio, io fondo un comitato di sostegno. Comitato per Nordio, per fare che cosa però? No, perché mi è sempre piaciuto lo spirito con cui ha fatto il magistrato, ha divulgato, ha scritto in pubblico i temi delicati senza confondere la divulgazione, e mi piace lo spirito con cui abbandona la magistratura. Non ci posso fare niente, mi piace Nordio. Va bene, lo ringraziamo ovviamente Carlo Nordio per essere stato con noi. E noi ci fermiamo, Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli. E tutti a comprare i dolcetti per i gattucci. In redazione al giorno del gatto, sì, quindi dolci, crocchettini. Io metto il mio cappellino con le orecchiette da gatto. Stasera, stanotte. Vorremmo tutti una foto. Vorremmo, no, questo, mi faccio no. promotore di questo, tutti gli ascoltatori. No, leggi l'intervista di Tavecchio, devi ripassare l'intervista di... Va bene, lo farò. Allora, lunedì, ciao.